sospeso ad aspettare che la fine di tutto sta per arrivare. Posso cercare di ricordare dove con te ho potuto sbagliare. No, mi dispiace, ma so che questa volta sarò io il vincitore. Non riuscirai a farmi fare la svolta del codardo giocando sul cuore. Quanto tempo hai giocato pensando che tutto questo fosse divertente? E in questo tempo ho capito che una storia così a me non serve a niente. Cambierò tutto, io sarò forte, l'orgoglio che sfrutto contro la sorte. Andrò per la mia strada come ho sempre fatto, e vada come vada, non accetto il tuo ritardo. Mi fermo un momento a pensare, cercando il giusto modo di reagire. Inutile restare a dubitare nell'amore, perché a volte si può fallire. Tutte le foto, mille ricordi, in questo momento a me abbiamo la ragione. Ho fatto un voto con l'orgoglio, ma le intenzioni che avevo erano buone. Poi torno a casa, mi sento incompleto e mi odio per tutto questo. Sappi una cosa, io non mento, ho detto basta e non cerco il solito pretesto. Cambierò tutto, io sarò forte, l'orgoglio che sfrutto contro la sorte. Andrò per la mia strada come ho sempre fatto, e vada come vada, non accetto il tuo ricatto. Fine dei giochi, impresa per pochi, e giungere adesso alla resa. Noi siamo dei fuochi destinati a spegnersi per una situazione tesa. Non mi chiamare, cercare, pensare, vivi la vita senza me. Perché sbagliare si può fare, ma non ti permetto di approfittarti di me. Chiudiamo tutto, questo fardello me lo porto, è giusto così. Sono distrutto da un sogno bello che purtroppo per oggi